1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:17 minuti, cari ascoltatori. Noi ci siamo, voi razza di debosciati, dove siete? Dai, dai, che lo schema Allegri è sempre valido, anche perché parleremo anche un po' di calcio, no? O meglio, di quello che è successo dopo la partita di calcio con l'affare di Stato. Juve-Roma, interrogazioni parlamentari, interpelli all'Unione Europea, appelli alla Consob. Tutto per una partita di calcio, eh? Anch'io seguo il calcio, lo sapete, con passione. Twitto, ma molto spesso twitto anche un po' per provocare, per divertirmi. Però ne parleremo alle 8:30, eh? Avremo l'onorevole Rampelli, avremo Massimo Giletti, gran tifoso della Juve, così come l'avvocato Paniz, ex parlamentare, ex presidente o presidente ancora attuale, non lo so, dello Juventus Club Montecitorio. Ma parleremo prima della riforma del lavoro alle 8:15. Tra un'ora esatta avremo ospite l'ex ministro Elsa Fornero qui ai microfoni di Radio 24 per parlare di questa riforma del lavoro che verrà votata presumibilmente con la fiducia, e lo scopriremo nel giro di 24 ore, ma lo scopriremo anche leggendo i giornali che trovate in edicola. In questo martedì 7 ottobre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre su voto di fiducia sul Jobs Act, modifiche ma non sull'articolo 18, questo è il titolo di prima pagina. Per Repubblica la sfida del governo, fiducia sul Jobs Act, scatta la rivolta nel PD. La Stampa, lavoro, il giorno della verità. Il Messaggero, Renzi chiede la fiducia sul lavoro, sfida nel PD. Il Fatto Quotidiano, fiducia sull'articolo 18, Renzi distrugge la sinistra. Mentre il Corriere della Sera apre sul sinodo, noi vescovi siamo qui per cambiare, ma c'è il lavoro anche, il governo chiede la fiducia, sempre in prima pagina, in risalto. Libero, i politici fischiano l'arbitro ma non i falli della Tasi. Camere come il Bar Sport. Questo è il titolo di Libero. Mentre il Giornale, essere figlio di Berlusconi non costituisce reato, i giudici smontano i teoremi del PM nella sentenza Mediaset. L'apertura invece del Manifesto è questa: abbiate fiducia. Ovviamente c'è ironia sul lavoro e la fiducia richiesta, o meglio, che verrà presumibilmente rimessa dal governo. Avvenire invece, parlare chiaro, dire tutto, è il metodo del Papa per il sinodo sulla famiglia. A proposito di famiglia, sono molti gli articoli oggi sulla vicenda sfociata in violenze delle manifestazioni delle cosiddette sentinelle in piedi. Sono manifestazioni che ci sono state nel weekend. Le sentinelle in piedi è questo movimento apartitico, aconfessionale, che è nato in rete e che è formato da persone che manifestano come stando in piedi, in silenzio, leggendo un libro. Questo nelle piazze italiane, nato in Francia per la verità come movimento, ed è nato per contestare il decreto legge Scalfarotto, perché dicono può inserire il reato di omofobia. Che è successo? Che domenica hanno manifestato un po' in varie parti d'Italia, è finita con pugni, con risse in varie zone italiane. Ovviamente adesso, come succede in tutti questi casi, tutti che hanno ragione, ognuno ha ragione. Io, da come l'ho percepita io, a meno anche dalla questione della polizia, delle forze dell'ordine, che hanno detto queste persone che manifestavano in maniera pacifica, appunto in silenzio, sono state aggredite. Questo è il dato di fatto. Tutti gli articoli, tutti i giornali si concentrano su questo movimento. Per esempio Repubblica fa una bella pagina, pagina 23: noi sentinelle difendiamo la famiglia da una lobby gay che vuole distruggerla. Jenny Ermeletti racconta: antagonisti anarchici sono arrivati in piazza Loreto, e si parla di Rovereto in provincia di Trento, prima delle sentinelle in piedi. Ci hanno distrutto i pannelli, rubato i microfoni, non abbiamo nemmeno avuto il tempo, racconta Roberto Buffi, coordinatore delle sentinelle a Rovereto, di aprire i nostri libri. Un sacerdote, Don Matteo Graziola, è stato spintonato e ha preso una gran botta. A un ragazzo di 22 anni hanno spaccato il setto nasale. Tutto doveva ancora iniziare, noi eravamo in 4 e loro in 20. Le sentinelle hanno regole precise, vegliamo in piedi nelle piazze per un'ora in silenzio, non rispondiamo a domande, non reagiamo ad eventuali provocazioni. Domenica non sono arrivate domande, ma insulti e botte, racconta Repubblica. Lanci di uova, fumogeni, bottiglie. L'istigazione all'odio, sentenzia Camillo Villagran, responsabile nazionale della comunità Rete di Conoscenza, lei gay, lesbo gay, vabbè, insomma, adesso LGBT, dice: non è libertà di espressione, le sentinelle rivendicano il diritto di discriminare e opprimere gay, lesbiche e transgender. Nemmeno per sogno, replicano le sentinelle. Per esempio Valentina Castaldini, consigliere comunale di NCD sotto le Due Torri, dunque a Bologna: io faccio la sentinella da un anno, anche se fa freddo o nevica. Questi incontri non sono una protesta, ma un modo intelligente e silenzioso per svegliare cervelli un po' addormentati. Ero in piazza con il mio libro, Il padrone del mondo di Robert Benson, assieme ad oltre 80 persone. Sono arrivate le urla, le uova, una bottiglia che è caduta a 30 centimetri da una bambina di 6 anni. E a chi dice che c'era Forza Nuova, erano in 4 e si sono messi in un angolo senza che nessuno li avesse invitati. C'è stato anche un ragazzo, addirittura, e questo è successo a Roma, che si è, o forse a Bergamo, che si è presentato vestito da nazista perché voleva ironizzare e dare dei nazisti alle sentinelle. Si è messo lì vicino a loro, anche lui, a leggere un libro, solo che il libro era il Mein Kampf di Hitler, ed era vestito totalmente da nazista. Questo ragazzo, Gian Pietro Belotti, 30 anni, studi artistici alle spalle, si è presentato alla manifestazione con al braccio il simbolo del grande dittatore di Charlie Chaplin e sul petto una spilla arcobaleno, il Mein Kampf di Hitler, ai piedi una scritta: i nazisti dell'Illinois stanno con le sentinelle. È stato portato via dalla Digos. Anche Mario Giordano, in prima pagina di Libero, racconta proprio questa vicenda: può manifestare solo chi sfascia tutto, gli altri li menano. Mario Giordano, prima pagina di Libero. Ma come? Così pacifici, in piedi, in silenzio? Queste sentinelle sono impazzite, osano protestare senza disturbare nessuno? Pensano davvero di manifestare pacificamente, in modo civile, addirittura con educazione, senza nemmeno incendiare un negozio, gettare una molotov, insultare un poliziotto, aggredire un carabiniere? Ma siamo diventati matti. E poi che fanno con un libro in mano? Un libro? Vi rendete conto? Mica prendono una spranga, un'ascia, una catena. Ma che è un libro? Forse pensano che la testa sia da usare anziché da sfasciare a bastonate? Deve essere davvero gente pericolosa. Va subito fermata e in qualsiasi modo. È un'evidente provocazione. Magari, pensate un po', sono convinti che si possa difendere la propria idea sulle piazze italiane senza prima aver distrutto qualche mascella o in subordine qualche vetrina. Per fortuna, a rimediare a una manifestazione così inopinatamente pacifica ci hanno pensato loro, i No Global, gli anarchici, i ragazzi dei centri sociali, quelli insomma da sempre paladini della libertà di espressione, gli abitué dei cortei pubblici, i professionisti del manifestare è un diritto. Probabilmente sono convinti che manifestare sia un diritto soltanto se ci sono loro a menare le mani. Per questo hanno rimediato alla grave mancanza delle sentinelle in piedi, che l'altra sera stavano lì in 100 piazze italiane, buone e tranquille, col libro in mano, a dire no alla legge Scalfarotto senza neanche un accenno di violenza. E allora hanno iniziato a menare le mani. Tra l'altro, sempre su Repubblica, Michele Serra dedica la sua amaca a questa vicenda delle sentinelle in piedi. E scrive Michele Serra a pagina 32: i mesti integralisti cattolici che si fanno chiamare sentinelle in piedi e manifestano contro diritti altrui, in specie le unioni omosessuali, hanno come nemico fondamentale il papato di Francesco, la sua svolta antidogmatica, la sua fede che volta le spalle al truce obbligo in favore della generosa comprensione. Vadano dunque a manifestare in piazza San Pietro senza dare disturbo a chi coi loro problemi intestinali c'entra nulla. A loro seguito magari vada il codazzo di eroici schiaffeggiatori che ieri a Bologna ha inteso punire i fascio cattolici dando vita a una poderosa gazzarra. A modo loro sono difensore sfidei di altre parrocchie, così mentalmente irrigiditi da non rendersi conto che violare una manifestazione di violatori rimette in pareggio uno score che sarebbe altrimenti rovinoso per le sentinelle. Le sentinelle basta lasciarle parlare, basta lasciarle fare i picchetti di contrizione per capire che si puniscono da sole. Hanno un risalto umano, mediatico e politico pari a meno di zero. Tranne ieri che il loro stand-in bolognese ha avuto una eco 10 volte superiore al normale proprio grazie all'irruzione della squadra speciale Sganassoni, corpo speciale di un'ultrasinistra che incanutisce ma non matura mai. Vabbè, comunque la pensiate, questa manifestazione anche su Avvenire, violenze ai raduni delle sentinelle, gli eventi pacifici rovinati da antagonisti, soprattutto a Bologna e Rovereto. Anche Nicoletta Tiliakos racconta sul Foglio a pagina 2 le Manif pour tout e le botte, che è il movimento Manif pour tout, è il movimento nato in Francia. E le botte alle sentinelle in Italia. Vabbè, c'è solo tempo prima della pubblicità per l'articolo che fa vincere il premio Mani sul volante. L'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata è questo. Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera. La direttrice dell'ASL cacciata perché non voleva truccare i conti. Racconta del caso dell'ASL di Sassari, dove è arrivato un commissario, Marcello Giannico, 43 anni, racconta Gian Antonio Stella, che chiese di creare un buco nei conti. La sua mail, infatti, racconta alla direttrice dell'ASL Angela Cavazzuti, è questa: le raccomando l'approvazione del bilancio 2010 con le rettifiche che le ho suggerito. Le ricordo che in regione ci sono 120 milioni di euro liquidi disponibili per ripianare le perdite del 2010. Le sottolineo che questi denari vanno alle aziende che hanno prodotto perdite e non pareggi di bilancio. Cioè, scrive Gian Antonio Stella, traduzione, il bilancio fatto dalla direttrice improntato al virtuoso contenimento dei costi non va bene perché è troppo poco in rosso. Ma come? Il pareggio dei conti non è forse l'obiettivo di ogni buon amministratore dalla Patagonia al Kamchatka? Il bilancio dell'ASL di Sassari, che serve 336.000 cittadini di 66 comuni, aveva chiuso quel 2010 con 877.000 euro di passivo su un fatturato di oltre 500 milioni. Per capirci, uno sforamento dell'1,16%, 26 volte più basso di quello dell'anno prima. Era oro colato per la Sardegna che spende e spande, invece no. Per il commissario straordinario, racconta Stella, bisognava creare un buco per ottenere i fondi regionali. Risultato, la direttrice dell'ASL, che aveva fatto il pareggio di bilancio, viene pure cacciata. Evviva! Io sono in ogni luogo, io sono dentro di voi, sono dentro ognuno di voi che ascoltate. Guardatevi dentro e mi troverete lì. E io vi saluterò. Alessandro Milan, Er Pupone per l'informazione. Er Pupone in questi giorni è un po' sotto attacco, altro che Er Pupone dell'informazione. Parleremo tra l'altro alle 8.30. Er Pupone Totti ovviamente. Lo dico per Elisabetta Fusconi che ieri mi ha detto in redazione: ma Totti dove gioca? Nella Lazio? Vabbè, andiamo avanti. Come detto, la notizia politica del giorno certamente è che il Consiglio dei Ministri ha dato l'autorizzazione a mettere e porre la fiducia per la riforma del lavoro. Non vuol dire che è stata posta la fiducia, vuol dire che è stata data l'autorizzazione, ma molto probabilmente la fiducia verrà posta oggi alla fine delle discussioni e probabilmente si potrà votare anche domani o forse mercoledì mattina la riforma del lavoro. Questo perché mercoledì a Milano c'è il summit sul lavoro europeo, c'è anche la Merkel, ci sono tutti i rappresentanti europei e quindi sicuramente anche una carta vincente per Matteo Renzi da far vedere l'approvazione al Senato della riforma del lavoro. Comunque, Jobs Act, il governo chiede la fiducia, così titola Il Sole 24 Ore a pagina 3 con Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci, che raccontano il colpo d'acceleratore sul Jobs Act. Il governo presenterà oggi un maxi emendamento nel quale è stata autorizzata la richiesta di fiducia in aula al Senato. Quali sono i punti? Beh, sull'articolo 18 il premier Renzi avrà di fatto mano libera di intervenire coi decreti attuativi dei principi generali contenuti nella delega. Quanto ai tempi, fa sapere il Sole 24 Ore, oggi si conclude la discussione generale, ci sono circa 30 senatori iscritti a parlare, al termine della quale la replica del ministro Poletti, a quel punto si deciderà se porre o meno la fiducia autorizzata dal Consiglio dei Ministri e verosimilmente la fiducia verrà votata domani. Questi sono i tempi. Anche il Messaggero si concentra sulle modifiche che sono state apportate o verranno apportate oggi. Arrivano le nuove regole su reintegro e ammortizzatori. Questo è il titolo di pagina 4. Andrea Bassi racconta un elenco preciso dei casi considerati particolarmente gravi che daranno diritto al lavoratore al reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento disciplinare. Un indennizzo rafforzato negli altri casi che potrà essere accettato anche unilateralmente dal datore di lavoro nel caso in cui il giudice dia ragione al lavoratore censurando il licenziamento. Certo, poi bisogna capire se tutto verrà messo in maxi emendamento o se alcuni margini di manovra verranno utilizzati poi successivamente, appunto, con i decreti attuativi, come scrive il Sole 24 Ore. Certo, la decisione di porre la fiducia è una decisione che ha scontentato molti all'interno del Partito Democratico. Ieri Matteo Renzi è comparso a Quinta Colonna su Rete 4, condotta da Paolo Del Debbio in prima serata, e in una lunga intervista, come racconta il Corriere della Sera, pagina 2, con Alessandro Trocino, ha parlato un po' a tutto campo. Sulle riforme ce la mettiamo tutta e teniamo botta, non molliamo di un centimetro. Non ha fatto accenno esplicito alla fiducia, ma ha parlato di vari temi, anche dell'articolo 18, dice Renzi, un po' di colpa ce l'hanno i politici, ma la responsabilità diffusa è di tanti, anche dei sindacati. Non voglio scardinare le regole del mercato del lavoro, ma le sembra normale che se uno ha 16 dipendenti è tutelato e se uno ne ha 13 no? Non è giusto. E ancora sul partito diviso, non voglio polemizzare, una parte del mio partito è preoccupata perché magari non si fida di me, li rispetto, non è facile quando tocca un'altra generazione. Poi ci sono alcuni che dicono bisogna decidere come si sta dentro un partito. Bene, io sono stato all'opposizione di Bersani e mica mi ha buttato fuori, ora tocca a noi e non dobbiamo assolutamente buttare fuori nessuno, dobbiamo arrivare a due partiti. Questo Matteo Renzi, certo, però i mugugni ci sono in Parlamento, racconta sempre il Corriere della Sera la minoranza al bivio. C'è chi dice voterò perché è il mio presidente del Consiglio, c'è chi si lamenta perché dice, come Cecilia Guerra, ex viceministro, che dice bah, insomma, far cadere il governo non mi sembra giusto, ma siamo arrabbiati, manca lo spazio per il confronto. Alla fine la sensazione è che voteranno tutti compatti, anche perché che non ci sia tempo, Renzi lo dimostra anche oggi con l'incontro con i sindacati. Tra 20 minuti, alle 8 e alle 9, appuntamento con gli industriali di Confindustria. Insomma, un'ora, tanto che Susanna Cabusso ha detto questa battuta, mi ricorda la canzone Un'ora sola ti vorrei. Eccolo qui su Repubblica, pagina 4, governo sindacati sarà un incontro lampo. No? Filippo Ceccarelli racconta anche di quando Renzi in TV disse qualche tempo fa: mi annoia quel lungo tavolone e quelli dentro che chiacchierano. Ecco, lui vede così le trattative sindacali, e non ha neanche tutti i torti, aggiungo io, e nella Sala Verde a Palazzo Chigi oggi ci sarà questo incontro di un'ora. Anche Roberto Giovannini sulla Stampa la vede così: soltanto dalle 8 alle 9 per incontrare i sindacati. Un'ora e poi basta chiacchiere. A proposito di chiacchiere o proposte, c'è la questione del TFR che tiene ancora banco. Oggi è il vice ministro all'economia Morando, che intervistato al Secolo XIX, rilancia questo tema: l'anticipo del TFR senza un euro in più per il fisco. Questo è il titolo dell'intervista di Carlo Gravina al vice ministro dell'economia, che sul Secolo XIX dice: l'anticipo del TFR in busta paga si farà solo se non sarà prelevato un euro in più dalla liquidazione dei lavoratori. Enrico Morando prova a far chiarezza su una delle misure più controverse. Parla anche della legge di stabilità. La domanda è questa: riuscirete tutto a chiudere entro il 15 ottobre? La legge di stabilità è in fase di scrittura, ma il punto di partenza è il DEF, documento in cui abbiamo certificato che la scelta strategica è di utilizzare il margine di indebitamento che ci siamo guadagnati. Se non facessimo niente, infatti, il rapporto deficit-PIL si fermerebbe al 2,2. Noi invece ci spingiamo fino al 2,9%. Sul capitolo TFR dice Morando: è il momento di fare chiarezza. La misura del TFR si farà solo a due condizioni. Primo, non dovrà esserci nessuna riduzione della liquidità delle aziende. Secondo, dal TFR dei lavoratori non sarà prelevato un euro in più di tasse rispetto a quanto avviene ora. Insomma, alla domanda: quindi la liquidazione sarà tassata come avviene ora? Risponde Morando: non ci sarà alcun guadagno fiscale per lo Stato. E sarà il dipendente privato a decidere se farsi anticipare il TFR in busta paga o meno, quindi misura volontaria. Questo disse il vice ministro dell'economia Morando, mentre il Corriere fa sapere che la strategia di Berlusconi è questa, è una doppia strategia. Un Berlusconi che dice ai suoi, pagina 10 del Corriere: non possiamo permetterci la caduta del governo Renzi. Per il paese e per tutti è molto meglio che sia Renzi a fare le riforme e non che le faccia la troica tra 6 mesi. Sarebbe un disastro per l'Italia e io non me l'augurerò mai. Quindi Berlusconi, che è scettico sulla riforma del lavoro giudicata da lui troppo annacquata, scettico sull'idea del TFR perché c'è il rischio che per farsi votare dai suoi Renzi faccia provvedimenti pasticciati, però il governo non deve cadere. Questa è la linea Berlusconi, mentre la linea Meazza qual è, caro Mauro Meazza? Buongiorno. Ma mi cogli un po' impreparato, perché su queste materie non sono così, non ho fatto il tempo a studiare. Non ho ancora una linea. Vedo che invece il fisco ha cambiato linea sui redditi degli autonomi, cioè, o meglio dovrà cambiarla, perché la Corte Costituzionale è intervenuta ieri con una sentenza molto importante in cui ha bocciato la presunzione di reddito per i prelievi dal conto del lavoratore autonomo. Ma la vicenda viene spiegata bene nelle pagine Indovina Quali, che se lo dico fa di enorme tributi. Ti voglio anche dire, sai, Zio Paperone finisce in rosso. Avrai visto questa cosa di Euro Disney, ne parliamo, sì, sulle 24 ore. Un miliardino, altro che il centesimo di paperoniana memoria per Euro Disney, quindi la controllata europea. E poi attenzione, perché tu hai soldi in Svizzera? Perché no. La Svizzera, no. Però non è che volevi mettere i 2 euro in Svizzera, perché la Svizzera, no, guarda che ha cambiato decisamente le sue norme sui conti correnti. Quindi questo tra l'altro potrebbe dare una spinta decisiva alla legge sulla voluntary disclosure, di cui ancora si discute. La legge non c'è ancora, però avendo cambiato un po' l'approccio alla Svizzera, ecco, allora potrebbe venirne una spinta anche per la nostra legge sulla voluntary disclosure. Mi raccomando, oggi c'è la pagina di condominio, sì, dedicata ai conti correnti dell'amministratore, e siamo sempre in tema. E poi anche si sta muovendo qualche cosa sul contestato decreto legge giustizia. Leggi Giovanni Negri oggi sul Sole 24 Ore. Sai le famose ferie dei magistrati? 30 sì. giorni, 45 giorni. Ecco, si sta trovando una mediazione, ma lo scopriremo solo vivendo, caro Alessandro. Esatto. Traffico. Alessandro Milan, il David Letterman dell'informazione. Già. Ma magari, allora, oggi tra l'altro per chiudere la pagina, se volete, economico-politica, interessante il profilo che Giuliana Ferraino fa sul Corriere della Sera di Yoram Gutgeld, 54 anni, uno dei consigliere matematico di Matteo Renzi, nato a Tel Aviv, laurea in matematica e filosofia all'Università Ebraica di Gerusalemme, seguita da un MBA a UCLA negli Stati Uniti, ha lasciato diciamo una carriera di successo in McKinsey, dove era arrivata a essere senior partner e direttore con stipendio di oltre 1,5 milioni di euro l'anno, scrive il Corriere, per seguire appunto Matteo Renzi in questa avventura. È considerato il consigliere economico più fidato di Matteo Renzi. E perché ne parla il Corriere? Perché svela che il bonus degli 80 euro in busta paga è stata una sua idea. Così ho convinto Renzi, gliel'ho spiegato via SMS. Così Yoram Gutgeld nel profilo che appare sul Corriere della Sera a pagina 9. Mentre continua la disfida Pizzarotti, Movimento 5 Stelle, oggi il sindaco di Parma fa due interviste, una a Repubblica e una alla Stampa. I titoli sono questi: Pizzarotti sfida a Grillo, ormai la leadership è diventata un problema. Questo è il titolo di Repubblica. Dice, in vista della kermesse al Circo Massimo del Movimento 5 Stelle, con Grillo non candidabile. Avete un problema di leadership? Risponde così a Repubblica Pizzarotti. Questo è esattamente il punto. Di questo bisognerebbe parlare, è una questione che va affrontata. Mentre nell'intervista alla Stampa parla anche di Di Maio. Ha visto che sarà lui l'ultimo a parlare prima di Grillo? Ho visto, è competente, ma non basta. E il titolo della Stampa è: ci serve un leader candidabile. Pizzarotti sfida Di Maio per il dopo Grillo. L'idea è questa: di Pizzarotti dobbiamo parlare, dialogare, ma certo serve un leader candidabile. Staremo a vedere se ci sarà, come dire, qualche tensione politica all'interno del Movimento 5 Stelle nella kermesse del Circo Massimo sabato e domenica. Intanto tutti i giornali si concentrano sul sinodo che si è aperto, il sinodo sulla famiglia. Il titolo del Corriere della Sera è questo: i divorziati risposati, parte della Chiesa. È il titolo uguale che troviamo su Corriere Repubblica. Sono i riformisti del sinodo, racconta il vaticanista di Repubblica Marco Ansaldo, che dicono i divorziati risposati siano parte della Chiesa. E poi tutti sottolineano l'invito del Papa: esprimetevi in libertà, garantisco io per tutti. È comunque un sinodo che durerà vari giorni per parlare delle tematiche della famiglia e l'approccio da parte della Chiesa. Mentre ovviamente tutti i giornali si concentrano anche sulla grande preoccupazione per l'Ebola, che di fatto è sbarcata in Europa. C'è il primo caso accertato di un'infermiera spagnola colpita dal virus. Andrea Nicastro ne parla a pagina 12 del Corriere della Sera. Ebola ha lasciato l'Africa e riesce a trasmettersi anche in Europa. È successo per la prima volta a Madrid. Un'infermiera è entrata in contatto con un missionario malato, il religioso Emmanuel García Viejo, che era stato rimpatriato da Sierra Leone con i sintomi del virus già evidenti, ha lottato pochi giorni contro il male, poi è morto. 11 giorni fa, il 26 settembre, tutti sapevano della pericolosità del virus, che ha contagiato già più di 7.000 persone e ne ha uccise più della metà. Tutti erano preparati per proteggersene quando García Viejo è sceso dall'aereo. Eppure la gabbia di contenzione non è bastata. Un'infermiera di 44 anni, che è entrata appena due volte nella stanza di isolamento all'ospedale, si è ammalata. E questo per dire come la situazione è chiaramente delicata, non da terrore, e infatti il Corriere della Sera con Margherita De Bacca, pagina 13, fa anche un racconto di quello che c'è da sapere, ed è importante secondo me leggerlo, quello che c'è da sapere sull'Ebola. Bisogna alzare la guardia, sì o no? Cosa sappiamo sul nuovo virus, sul virus che muta? Come sono le precauzioni? Quali cure specifiche e farmaci ci sono per fronteggiare questa epidemia, soprattutto in Africa? Beh, tutto questo lo trovate sul Corriere della Sera. Certo, fa preoccupazione, da preoccupazione il fatto che sia sbarcata in Spagna. Mentre Repubblica torna sulla vicenda dell'ENI con l'inchiesta della Procura di Milano per presunta corruzione internazionale. Sono due pagine intense che non vi posso leggere perché sono molto molto corpose, ma parla a Repubblica, in un'intervista di Carlo Bonini ed Emilio Randacio, il grande accusatore dell'ENI, che per 11 ore ha risposto alle domande dei PM Fabio De Pasquale, Eugenio Fusco e Sergio Spadaro, e ora si pone davanti ai due cronisti di Repubblica. Il suo nome è Vincenzo Armanna, è un ex dipendente dell'ENI che dice, ex dirigente, che esordisce così: in ENI hanno tentato e stanno tentando di distruggere la mia reputazione e la mia storia professionale. Ho letto con incredulità quello che è stato capace di raccontare l'amministratore delegato De Scalzi a Gad Lerner, proprio su Repubblica. Eppure in ENI sono stato membro di numerosi CDA, di società controllate in Congo, Uganda, Qatar, Arabia Saudita, per non parlare del mio lavoro in Iran. Io non ho paura, non sono un vinto e, come vedrete, non ho intenzione di nascondermi. Ognuno è libero di credermi o meno, ma come ho detto la verità ai magistrati, così la dirò a voi. Esordisce così in una lunghissima intervista, il titolo è questo: il grande accusatore ENI dice: il rais nigeriano mi disse De Scalzi è ai miei ordini. De Scalzi è l'amministratore delegato. Parla della maxi tangente sui pozzi. In Italia imposero il mediatore, 50 milioni tornarono in mazzette. L'intermediario era legato a Scaroni tramite un legale vicino al finanziere Micheli, e ad Abuja, cioè la capitale della Nigeria, si diceva che i soldi erano per Paolo, cioè per Scaroni. Queste sono due pagine su Repubblica che vi segnalo, pagina 10 e 11. Beh, fa arrabbiare alquanto invece la notizia di cronaca che pone Libero. E siamo a pagina 19, il titolo è già emblematico: il pregiudicato Rom va ai domiciliari a spese nostre. Succede a Padova, racconta Alessandro Gonzato, dove un pluripregiudicato Rom, 41 anni, indagato con altre 16 persone, tra cui la moglie e uno dei 7 figli, per associazione a delinquere, aggravata in merito a una serie indeterminata di delitti di natura predatoria, furti, rapine, ricettazione di beni, è finito agli arresti domiciliari in un appartamento dell'Ater di Padova. Insomma, l'azienda territoriale per l'edilizia, una casa popolare per intenderci, l'ente che fa capo alla regione Veneto. La casa in questione però era stata concessa in locazione a Don Albino Bizzotto dell'associazione Beati i Costruttori di Pace, e secondo Libero il sacerdote ha deciso di trasformare lo stabile in una sorta di condominio abitato da alcune famiglie rom. Il sindaco Bitonci dice: lo cacceremo in tutti i modi, lo manderemo via. Insomma, gli arresti domiciliari, titola Libero, a spese nostre in una casa popolare. Vabbè, dopo aver chiacchierato con Elsa Fornero alle 8:15, dopo il giornale radio, parleremo anche di calcio, e la Gazzetta continua: Moviola, antivirus, c'è anche lo juventinissimo Massimo Giletti, che sarà nostro ospite tra gli altri, che fa un intervento sul Messaggero e quindi sul giornale che ieri titolava: la Roma è partita con un uomo in meno, cioè l'arbitro, a dire: imparate a saper perdere e a misurarvi con i vostri limiti. Ma insomma, è diventato un affare di Stato. Roma-Juventus, o meglio Juventus-Roma, ne parleremo alle 8:30, ma prima il premio La Carta Costa per l'articolo più inutile scovato sui giornali. Era ovvio, doveva finire sui giornali, oltre che da Barbara D'Urso, questa vicenda della relazione tra la senatrice Pezzopane, 54 anni, e il baby fidanzato spogliarellista 30 anni, Giovanna Cavalli, ne parla sul Corriere per dirci che lui mi chiama Pesciolina! Pesciolina pezzo pane! E io lo chiamo Gnocchetto! Anche se in effetti è uno gnoccolone. Parole della senatrice pezzo pane. Pesciolina, pesciolina nostra. Ma chi se ne frega?